Iniziamo le nostre riflessioni leggendo nella lettera di Paolo scritta agli abitanti di Corinto. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Siccome io non sono mano, non sono del corpo», non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: «Siccome io non sono occhio, non sono del corpo», non per questo non sarebbe del corpo. 1 Cor 12:14-16. Dopo tanti anni che leggo e medito la parola di Dio, e dopo quasi altrettanti anni che predico, ho capito che un messaggio sul tema come essere Chiesa è uno dei più impegnativi e più difficili da presentare, e forse anche da ascoltare. Uno studio sulla vita di Giuseppe o sulla dottrina del ritorno di Cristo molto spesso lasciano il tempo che trova. Gli ascoltatori sono edificati, ma il loro comportamento di vita può rimanere inalterato. Ma meditare su come il cristiano deve vivere la sua vita all'interno della Chiesa non può e non deve lasciare chi lo ascolta nell'indifferenza. Il credente che fa parte di una Chiesa viene chiamato in causa e gli si presentano due scelte: o migliorare il proprio rapporto con la Chiesa o questo rapporto andrà sempre più indebolendosi. Prima di entrare nel merito dell'argomento, desidero fare una premessa riportando alcune riflessioni prese a prestito dal periodico Certezze del mese di maggio del 1987. In quel numero veniva affrontato l'argomento dell'impegno che il credente deve prendere nella sua vita. Paragonando la vita cristiana con il gioco, afferma: «I giochi sono importanti per l'uomo, non solo negli anni della sua crescita, ma anche da adulto. Però, se egli comincia a scambiare il gioco con la realtà e da giocare con la vita, le conseguenze possono essere gravi. Se poi un uomo si mette a giocare ad essere cristiano, allora va diritto verso un grosso guaio. Purtroppo, non è del tutto impossibile giocare ad essere cristiani senza rendersi conto di farlo. L'individuo pensa di essere un cristiano, ma certi suoi atteggiamenti, certi aspetti del suo stile di vita, del suo modo di pensare, sono segnali che il suo tragitto può pure correre parallelo alla via cristiana, ma non è la via di cui Gesù parlava. Questi segnali dovrebbero indurlo a domandarsi: sono cristiano o sto giocando ad essere cristiano?» Eccone alcuni. Un primo segnale riguarda il posto che egli dà nella vita alla sua volontà. Quando si gioca, si sceglie da sé qual è il gioco del momento, e molto spesso anche le regole, e con chi giocare. Se uno sta giocando ad essere cristiano, fa la stessa cosa. Invece, il vero cristiano è servo di Dio, e la sua volontà è sottomessa alla volontà del Signore. Il Padre l'Eterno gli indica quale strada fare, come vivere e quali regole ubbidire, e con gioia egli segue il modello della vita di Cristo. Il Padre mette accanto ad ogni cristiano altri suoi servitori, compagni e colleghi, uomini e donne, che quel cristiano non avrebbe necessariamente scelto di avere vicino. Il Padre gli chiede di amare quelle persone, di servirle con amore. Egli lo chiama al servizio in uno specifico ambiente, dove sta. Lo chiama a sottomettere la propria volontà alla sua in quel complesso di situazioni sociali e culturali e di ubbidire a lui lì. Il secondo segnale riguarda la permanenza e la costanza dell'impegno. In un gioco si può fermarsi per riposare o smettere perché ci si è annoiati o gettare la spugna per nessuna ragione speciale e senza causare traumi. E si può anche cambiare gioco. Ma la vita cristiana è un tragitto per la vita intera. Per ogni giorno, ogni passo, implica un impegno totale e continuo. Il rapporto reale con Cristo non contempla intervalli in cui si possa dire: «Oggi non mi sento di vivere da cristiano, voglio vivere in un altro modo, prendo un periodo di riposo in cui andare in un'altra strada. Più tardi magari riprenderò». No, quell'atteggiamento va bene per un gioco. Ma Gesù disse: «Nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio». Un terzo segnale riguarda il tragitto stesso della vita, la linea di passaggio del cristiano attraverso il mondo. In un gioco si creano certi ostacoli, si aggiungono anche difficoltà fastidiose e se ne tolgono altre. Fa tutto parte del gioco. Con i trenini si gioca ad un deragliamento, uno sciopero, un ritardo. una rapina, rendono il gioco più intricato e perciò più interessante, ma, si sa, è solo un gioco. Nella realtà della vita di Cristo, come nella realtà di una qualunque vita umana, ci sono sofferenze, ostacoli, tentazioni. Il cristiano non li ha scelti e non può toglierli con un semplice suo intervento. Come reagisce? Se accusa Dio di essere ingiusto con lui, se lascia agli altri il compito di resistere alle ingiustizie e sollevare il povero o confortare l'orfano, mentre lui corre ad un suo rifugio privato, nascondendosi dal mondo ostile e odiando che gli ha creato difficoltà e pene. Pricciasta tautaipano, taucanta, cristiano. La vita cristiana non è un rifugio atomico in cui i fortunati vivono separati dai pericoli di contaminazioni, o dai rischi, dai guai e dalle angosce dei comuni mortali. I cristiani vivono in Cristo, ma nel mondo. Dunque, vivere una vita di chiesa significa vivere una vita di impegno. Paolo afferma che se anche il credente dicesse «Io non sono del corpo», non per questo non sarebbe parte del corpo. Far parte del corpo significa far parte di ogni attività di chiesa, partecipare, seguire l'andamento delle membra, esercitare il dono ricevuto. La chiesa è un luogo di impegno, di servizio. Purtroppo essa è scambiata per un albergo o un ristorante dove uno dopo un lautopasto si è liberi di andarsene senza rendere conto a nessuno. Ci è chi scambia la chiesa per un club dove non si hanno vincoli morali con nessuno, dove si va quando si ha tempo dando precedenza ad altre cose. Se vogliamo un'analisi più approfondita, riporto sempre da certezze queste riflessioni. Nel nostro tempo la religione è caduta prigioniera dello spirito turistico. La religione è intesa come una visita ad una località attraente da farsi nel tempo libero, quando se ne abbia a sufficienza. Per alcuni è una scampagnata in chiesa a scadenza settimanale. Per altri, consiste in occasionali partecipazioni a culti speciali. Altri, con un'inclinazione per intrattenimenti religiosi e passatempi sacri, pianificano la vita intorno a ritiri, raduni e conferenze. Si va a vedere un nuovo personaggio, ad ascoltare una nuova verità, a fare un'esperienza nuova per rompere in qualche modo la monotonia dell'esistenza. Il problema di fondo di questo modo di vivere, quando non vi è veramente una vita di chiesa, da parte di alcuni, è la mancanza di identificazione col corpo, cioè l'individualismo. Ho maturato in tanti anni di esperienza la convinzione che per certi credenti la Chiesa è una realtà. Loro sono un'altra realtà staccata. Il fatto che la Chiesa vada bene o male non li tocca più di tanto. Se la Chiesa è spirituale o carnale, se sta andando bene o male non si sentono coinvolti. Questo è individualismo. Questo spirito si può cogliere in certe preghiere come «Signore benedici questa Chiesa». Come se la chiesa che frequentano non fosse quella alla quale appartengono. Ma punto com è vero che se anche un membro dicesse «Io non sono del corpo, ma non per questo non fa parte del corpo», è altrettanto vero che se la chiesa cammina male, se la chiesa sbaglia. L'individualista, facendo parte del corpo, si trova a camminare male, a sbagliare. Forse questa è la realtà più difficile da accettare. È l'individualismo il nemico più grande di una comunità. Colui che non si sente parte della Chiesa è capace di compiere le cose più dannose, come nessuno farebbe qualcosa di negativo a un membro del proprio corpo, perché in fondo è lui che ci rimetterebbe. Così nessuno che abbia uno spirito comunitario danneggerebbe la Chiesa alla quale appartiene. Per danno non intendo quei peccati che noi riteniamo gravi, ma è sufficiente l'assenteismo e il vivere da ospite. Non ci è nulla di più scoraggiante per una chiesa di membri che frequentano saltuariamente le riunioni e vivono da ospiti, cioè non si sentono impegnati e quindi non partecipano alla vita di chiesa. Come si può uccidere una persona sia direttamente colpendola, sia indirettamente non soccorrendola? Così si è colpevoli verso il corpo di Cristo, sia facendogli del male, sia non aiutandolo a crescere. Credo che tutti siamo d'accordo che il più grande comandamento sia quello di amare Dio e il secondo quello di amare il prossimo. Il prossimo, a scanso di equivoci, è principalmente il fratello. nella fede. Cosa vuol dire amare il fratello? Come faccio a sapere se io amo i figli di Dio o se invece penso solo di amarli e quindi mi illudo? Voi direte che bisogna sentire dell'affetto verso di loro. Può anche darsi, ma i nostri sentimenti non sono forse ingannevoli? Non credete che ci debba essere una prova esteriore che mi assicuri che io sto veramente amando i fratelli? Voi direte che non bisogna fargli del male? Ma anche le persone da bene lo pensano, voi dite che bisogna fargli del bene? Può anche darsi, ma il bene si può fare anche senza amare chi beneficiamo, non è vero? Come posso quindi sapere se io amo veramente i figli di Dio? La parola di Dio ancora una volta ci viene in aiuto e risolve il problema alla radice e in un modo del tutto inaspettato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. 1 Giovanni 5, 2. Abbiamo capito questa affermazione di Giovanni? La prova che io amo i figli di Dio non la devo trovare in una relazione orizzontale, cioè basata su comportamenti e sentimenti nei loro confronti, ma dipende dalla mia relazione con Dio. Se io amo Dio, allora amerò anche il fratello. Se io amo Dio e osservo i Suoi comandamenti, amo anche il fratello. Se tu sei impegnato nella Chiesa, non lo devi fare per il fratello, ma perché ami Dio. Se tu sei servizievole nella Chiesa, non lo devi fare per il fratello, ma perché ami Dio. Se perdoni il fratello, non lo devi fare perché ami il fratello, ma perché ami Dio. Dobbiamo accettare è che né tu né io possiamo amare direttamente il fratello, ma solo tramite Dio. L'amore umano va e viene, si scoraggia, si avvilisce, ma l'amore di Dio si fortifica ogni giorno, e la Chiesa è il luogo dove l'amore divino deve essere maggiormente esercitato. Ricordate l'incontro di Gesù con Pietro dopo la resurrezione e la relativa conversazione? Questo episodio lo narra l'Evangelista Giovanni al capitolo 21, versetto 15 a 17. Gesù chiese per 3 volte a Pietro se lo amava, e Pietro rispose di sì. Allora Gesù disse: pasci i miei agnelli e le mie pecore. Pascere gli agnelli e nutrire le pecore era per Gesù la conseguenza del fatto che Pietro gli volesse bene. Uno studioso ha fatto rilevare che in questa conversazione sono usati in greco 2 verbi per amore. Agape, cioè amore completo, eterno, e phileo, cioè amicizia. Gesù chiede a Pietro se lo amava in un modo completo, cioè agape. Pietro risponde che lo amava. Ma tenendo conto di quello che era successo, rispose che lo amava nel senso di phileo, cioè a livello di amicizia. Gesù chiede per la seconda volta se lo amava in un modo completo. Pietro risponde sempre nella stessa maniera. Allora Gesù chiede se Pietro se gli voleva veramente bene, cioè fileo. E a quel punto Pietro risponde: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che ti voglio bene. Da queste osservazioni possiamo quindi dedurre che non occorre un amore smisurato per servire la Chiesa. Ma è sufficiente la riconoscenza che abbiamo per natura verso colui che è morto per noi. Un giorno, mentre un uomo camminava, sentì gridare aiuto. Capì che la voce proveniva dal profondo di un pozzo. Calò la corda e tirò, ma non era in grado di sollevare chi gridava. Vide un passante e chiese aiuto, ma questo rispose: credente, non so quando me lo saprai dire. Ti aiuterò meno. Passò un altro uomo. Chiese aiuto. A quale chiesa appartiene? Non so, allora ti aiuto un'altra volta. Vide un altro uomo. Mi dai una mano? Chiese Cic. È qualcuno nel pozzo. Qual è il suo credo? Trattino. Non so, informati. Poi vedrò se posso aiutarti. Passò un altro. Aiutami, Cic. C'è qualcuno nel pozzo. Non posso. Io mi sono disattivato dalla chiesa meno. Poco dopo passò un altro uomo. Mi dai una mano? Cic. È qualcuno nel pozzo. Non posso. Sono stato offeso e quindi non faccio più niente meno. Passò un altro uomo. Mi dai una mano, ci, è qualcuno nel pozzo. Ma guarda, ho tanta confusione in testa che non so neanche io che cosa sia meglio fare meno. Quando avrò delle chiare convinzioni ti aiuterò. E detto questo andò oltre. Passò una donna e chiese aiuto. Ho troppo da fare, tra il marito, la casa e i figli, non ho tempo meno. Passò un giovane che alla sua richiesta di aiuto rispose: «Per il momento ho altri problemi da affrontare. Devo trovare la fidanzata, studiare, devo trovare un posto di lavoro. Verrò quando ho sistemato tutto meno». Queste persone agirono con coerenza dando precedenza ai loro problemi. Passò infine una persona che era molto impegnata, che aveva tanti problemi, era confusa, che era stata offesa, che aveva forti convinzioni sulla Chiesa e sulle dottrine bibliche, ma, visto il bisogno che c'era, lasciò da parte ogni considerazione, le sue convinzioni e, con un atto di incoerenza verso se stesso, aiutò a salvare colui che era nel pozzo. Solo chi ama il prossimo come se stesso adempie il più grande comandamento verso il prossimo. Amare la Chiesa significa soffrire, servire, pregare, partecipare, essere di esempio. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Mi trovo d'accordo con la riflessione preghiera di André Dumas. Quando penso alla Chiesa, la vorrei tanto come essa non è. Avvincente, impegnata, chiaroveggente, militante, certamente anche multiforme, universale, segreta ed evidente, ricca e corroborante, povera e trasparente, imprevedibile e solida. In breve, o Dio, mi piacerebbe che la tua Chiesa, che è la nostra Chiesa, mi offrisse tutto quello che io non le do. Allora, o Dio, fa che la smetta di biasimare la Chiesa, al fine di esimere me stesso dall'impegnarmi. Fa che la smetta di spiare i suoi difetti dal buco della serratura per esimermi dall'aprire la porta. Fa che abbandoni il banco degli spettatori e degli schernitori per sedermi sul banco degli attori e dei celebranti, perché solo così finirò di guardare da lontano la tua Chiesa che è la nostra Chiesa per vivere in essa. Febbraio 2000, Ellero. Contributo. Verità più amore. Un binomio inseparabile. Mino G. B. U. Jonathan Land.